Mystery Tour. Mystery Tour. Mystery Tour. La trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata ai misteri interplanetari, alla cultura trash e alla musica inaudita su tutti i fronti. In onda ogni domenica alle ore 20. Non mancate all'appuntamento con... Scusate ma l'immondizia mi dà alla testa. Mystery Tour Forever. Ogni domenica alle 20 su Radio Onda d'Urto. This is Angry Bob, the man with the industrial dick, coming at you loud and clear on WAR Radio. Rise and shine, folks. It's a beautiful day. Just look at that sky. It's a work of art. Ha! Nature never knew colors like that. And a friendly reminder, when you look at it, be sure to wear your shades. The radiation counts way up and the heat wave ain't expected to let up either. Weather control tell us it'll probably hit 110 downtown before nightfall. As for the good news, there is no fucking good news. So let's rock with one of our golden oldies. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. Dunque, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Mystery Tour, che sin da lontano 1998 vi tiene compagnia qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dove potete raggiungerci telefonicamente allo 030 377 1921. Non è vero, questo è il fax. Il numero di telefono è molto più semplice, è semplicissimo, 030 45670. Oppure semplicemente visitate il sito www.mtour.co.nr come numero, o altresì il myspace.com/mtour, dove potrete riascoltare tutte le vecchie puntate di Mystery Tour, ma anche tante belle interviste con personaggi di calibro internazionale. Allora, iniziamo con una novità assoluta e ringraziamo Pierpaolo Zoro 11 o Zoro 11 Monti, batterista e compositore di questi Shining Line, una nuova realtà dell'AOR rock melodico, una delle più interessanti in assoluto in Italia, ma con tantissimi ospiti da tutto il mondo. Ricordiamo anche il lavoro di Pierpaolo con hardsounds.it, il sito di recensioni, interviste e quant'altro, e ci presentano questo debut album uscito per Avenue of Allies, questa etichetta tedesca dedita a questo ottimo rock melodico. Quindi un'anteprima assoluta, uscirà il 14 maggio questo album. Noi di Mystery Tour lo abbiamo in anteprima e avremo anche presto, faremo anche un'intervista proprio con gli Shining Line. Quindi teneteci d'occhio, anzi d'orecchio. Noi ci ascoltiamo un brano in cui il vocalist è Harry S. C'è anche un assolo di Michael T. Ross alle tastiere. Il brano è Amy, loro sono Shining Line. Every single fight. Bravissimi, bravissimi i nostri Shining Line, che avremo qui ospiti telefonici a Mystery Tour. E sempre il 14 maggio uscirà un'altra realtà, sempre italiana, incredibile. Qua in Italia abbiamo questi ottimi gruppi rock, hard rock, chiamateli come volete, AOR. Questi invece si chiamano Skilling Veins. Noi ci ascoltiamo un brano parecchio rock and roll, tra l'altro molte influenze anche da parte dei nostri amatissimi Skid Row, magari non tanto in questo brano. Questa comunque è Youth Times, loro sono Skilling Veins. Direi proprio di sì, professore. Sì, sono di quelle cose sconce. Non so adesso. Tipo ustioni. Materiale proprio ecologico. Di prima qualità. Di prima qualità. Avius la pelle. Ma che schifo. Per 2000 inglesi che avevano comprato divani cinesi. Credevano di aver fatto l'affarone. C'è un low cost. Beh, ci sarà un motivo. Beh, questo l'abbiamo scoperto perlomeno. Beh, comunque una verità è che si tratta di una sentenza dell'alta corte britannica che ha imposto a queste ditte, alle ditte cinesi, un risarcimento di circa 20 milioni di sterline. Ammazza. Da dividere tra quanti hanno subito gravi danni fisici. Ma come, cioè, veramente, com'è? La fodera di un divano provoca ustioni, gravi danni. Che punto, che materiale era? Allora, vediamo un po'. Una sostanza essiccante detta DMF, DMF. E siccante dichiarata illegale dal, chissà come mai dall'Unione Europea, non ha aiuti di famiglia in cinese quale apra tanto potenziale, abbiamo capito basta quei film e in quel caso anni 80 per capire poi come si sarebbero involute le cose, le situazioni, intensissime che più con subisale ma questo scorrere che così insinuamente è vita lauro fronte al becano ti troppo pito e ti stai già degli attivi questo è euro ta 25 per tratti cosa fino slinci di un bitia che è uno la anche a prevacaziarsi e pensa troppo via trova stanno viti ma le mille che gli ma le lì per le trascinane non è se di questo è se dai dei virgionare gli rime colri ma non fatti dobbiamo sia vabbè la di e per certo c'è l'attivazione anche tu beh più un ferro a colino prima in te lo senti e a ver questo è no vi c'è la la per intacuna anche a seconda anche visto lì ma vinti si può in dettagli che non mi ritengono c'è già esatto per lì mamma mia che cosa prima anche sanguino una gria merita la mina la prima sangue cambia tra canidi per la roba tra perché in effetti la sera che con dei tegani e dove abbiamo letto la notizia dell'Ansa di uno due più aree esatto mia mamma mia vabbè io avevo già i potenti mezzi tecnologici ci sono quindi dovremmo attentarvi di marzo invece passa da starci cosa di tante in Italia andiamo in vittoria Romero e Romelo sempre un italiano e ad gli ospiti illustri in questo drag new a voce story voi si locante di Parlman solo Andex ci fa sentire Ugo Dori Sensv un bradirio molo e dei svu heal con di qui una scuola elementare è stata evacuata per allarme antigas. Oh. Ma erano broccoli. Non è possibile. Madonna, non è possibile. Buoni però, di prima qualità. Se... Ma a Rovereto è successo. Quindi è scattato l'allarme. I pompieri sono usciti, però hanno scoperto che la colpa era dei broccoli cotti in cucina. Mamma mia, dopo la prima ora di lezione è scattato l'allarme. Nemmeno a casa del professore. I broccoli. I vigili urbani no. Ho dovuto chiamarli, no, semmai perché avevo perso le chiavi. Esatto. Mamma mia. E quindi, hai capito? Questi broccoli, bisogna stare attenti. Ma alla fine allarme rientrato. Alla fine si sono fatti una bella magnata, non lo so, pure i pompieri. Mamma mia. Per invece... Spero che non tutti i thailandesi siano così... Così, inutile descriverlo. Vabbè, questa notizia: non potete entrare perché il vostro cane è gay. Ah, dai. Questo si è sentito a dire una coppia australiana all'interno del ristorante Thai Spice di Grange in Australia. Così il signor Ian Jolly e la signora Chris Lawrence hanno dovuto rinunciare alla loro cena thailandese perché secondo i camerieri il loro cane era stato operato per diventare gay. Cosa vuol dire? Cosa si sono mangiati questi trucidoni? Come si legge nella dichiarazione dei proprietari del ristorante. Pensi quanto fanno schifo questi, cioè questi sono veramente da prendere a bastonate. Nanj, questo è il nome del cane, in realtà è un cane guida per persone non vedenti. Cioè, capito? Dai, non hanno fatto entrare un cane guida per una persona non vedente. Possibile. E niente è servito che la coppia mostrasse il relativo tesserino al personale del ristorante. Ma siccome per i camerieri quello era un cane gay, non poteva essere ammesso. Ma poi come si sono messi in testa questa idea malata? Si vede che l'hanno visto. No, perché i proprietari del ristorante l'hanno visto dietro l'angolo. Esatto, no. Ma magari sarebbe stato anche non giustificabile, però. No, senta qual è la giustificazione di questi trogloditi. I proprietari del ristorante Hong Hoa Tito e Ash Hoang Le, per giustificare l'accaduto, hanno dichiarato che un loro cameriere avrebbe sentito la signora Lawrence dichiarare di voler portare un cane gay dentro il ristorante. E allora? Ma anche se fosse stato così, comunque fortunatamente questi schifosi hanno dovuto dare $1,500 australiani come risarcimento danni. Hai visto? Bisogna ingegnarsi. Ci dica. Magari non sono così rari comunque anche nelle nostre lande. Comunque andiamo negli Stati Uniti perché anche lì ne capitano. Ce l'hai anche tu? E dove? No, no, il fatto che non poi niente. Non ha lo sciopero, forse sì, un sì, ce l'abbiamo, ce la... riusciamo. No, perché... senta. Si è immerso nelle dame, è successo negli Stati Uniti. Certo, Thomas Hovitz Junior, nome e cognome, di 52 anni, si è immerso nell'etame. Indovina perché? Per protesta? Per evitare di essere catturato dalla polizia. Che lo ha lasciato andare? È stato ritrovato con il letame al collo dentro una vasca profonda. Ma... Hai capito? Stava braccando l'uomo colpevole di aver ucciso una persona. Quindi per diversi precedenti penali. Capito? Mamma mia. Dentro una vasca di letame è stato. Però dice colpito da ipotermia. Era freddo. Ipotermia della vasca di metallo. E quindi poi l'hanno beccato. È stato trasportato in ospedale. E poi insomma la conclusione ripulito. È rassicurante. No, qua non lo dice. Ah no. Però l'ANSA ci tiene a rassicurarci che è stato trasferito in carcere. Vabbè. Dove potrà usare questo bellissimo sciacquone. Quindi a proposito di carcere, noi abbiamo anche i filoni dei soldi. Galeotti che preferiscono giustamente il gabbio alla famiglia o alla moglie. Al family day. Meglio il carcere che la famiglia. Antonio, originario di Sarno, dice l'ANSA, ha infranto i domiciliari e ha chiamato i carabinieri per tornare in cella perché era impossibile la convivenza con i familiari. E quindi questo è uno dei tanti che ha deciso sì, di... ormai è più la regola che l'eccezione. Mentre invece a Londra, dice l'ANSA, uno sprite rende teneri gli uomini scorbutici. Scorbutici. Ah, è il risultato, dice l'ANSA, di uno studio scientifico. Serissimo. Certo. È condotto dai ricercatori dell'Università di Cambridge e di Bonn, ben due università si sono messe insieme per questa cacata. Certo. Vabbè, la sostanza è uno spray che trasforma gli uomini scorbutici in teneri. Teneri, grazie teneroni. All'ossitocina, ormone femminile fondamentale nel legame fra mamma e neonato durante l'allattamento. Ma certo, si rende certo. conto? Quindi, invece degli spray anti-aggressione, antistupro, diventano dei bonaccioni, ma sembra lobo, sembrano i fumetti. Effeminati. Ci metti niente. Ecco. Chi è? Ecco, una delle sue performance è composta da un chi l'ha dato a un semerare. Qualcuno si è rotto di la mani morte, commenti spinti. È arrivata la risposta dei giovani nudisti, non verbale. Uno degli uomini ha dovuto abbandonare la scena a causa di un problema evidente. Ha avuto un errore. Una mostra che tempo non può. Avevo chi questo si sta merita la sala. Vabbè, sì, ci sono due adri. Ma parlo mi tratta di man casa. Ho 45 dormito perfetto per te. Mi stai uno pa 45 anni. Tro micinia da caputo. Sono ci pareta niente caro. Stava indossare in un modo da legge. Non si può dire. Allora ti dedichiamo questa. Ma perché il bagno? Cosa usava? Quello dei custodi. Forse la diaccio, diciamo. Forse sarà il chimico, non si avrà organizzato. Vabbè, comunque era in buona compagnia, perlomeno i vicini di scuro. Beh, non scocciavano, non disturbavano. Esatto. Professore, è difficile passare sì, dalle stalle alle stelle, ma lo facciamo con il nostro vecchio Ennio Morricone e con un estratto della colonna sonora di Per qualche dollaro in più. La nostra duco di fare un po' scriptum sul trash una scelta ve la viene mi cazzo vibratore scambiato per un altro polizia disastro una inevitabile droga assunta è stato arrestato gente ruspata in cazzo la cavità anale sarà anche qua mi si aspetta il parlo di così di boba lui parlava questa dopo che quegli ufficiali si sono sospetti non hanno di fare gli uffici dei fittori armando e questo non si hanno non sta genere una camalassa mamma mia va attore mi sono come però mia. Qui mi ha un di crisologia veramente adesso io cioè sul Loch Ness non ho mai voluto non mi ha mai incuriosito quella cosa mi sembra talmente un fotomontaggio che mamone poi chi hai verificato invece sui lacetti hanno due partiti sto scoprendo in mano che consulta i blog che ci sono internet argomento perché è ufficialmente stato dichiarato estinto nel 1986 ma perché? Perché erano trascorsi 50 anni dalla morte dell'ultimo tilacino che si chiamava Benjamin e viveva nello zoo di Hobart in Tasmania. Di cosa si tratta? Allora, perché nel 1986 l'hanno dichiarato estinto? Semplicemente perché sono trascorsi 50 anni dall'ultimo avvistamento certificato. Cioè, certo. Lì lo toccavano anche con mano per la verità questo Benjamin. Se non che noi abbiamo in effetti la geografia che la Tasmania ha almeno un terzo del suo territorio coperto da cioè foreste pluviali impenetrabili. Praticamente sono fra le poche zone al mondo al mondo tuttora inesplorate, certo. Capito? Ecco. Allora, chi è per l'estinzione, vabbè, al di là di questi 50 anni, che è un po' una convenzione, credo, no? Che si sono dati gli studiosi, sì, diciamo, sì. Ecco. Per cui, vabbè, conta per quello che è, una pura e semplice convenzione, perché è chiaro che se si riuscisse ad avvistare oggi un tiracino, si dovrebbe dire che l'asino non è attettivo. Infatti. Questi fatti erano anche grilli di Tasmania, perché zebrati sulla groppa. Erano zebrati sulla groppa e quindi venivano detti tigri di Tasmania, ma vivevano migliaia di anni fa anche in Australia. Da lì sono stati completamente scacciati via proprio non hanno più avuto la selvaggina da cacciare per via dei dinghi. Il dingo è un cane rinselvatichito che è stato introdotto, esatto, ma già migliaia di anni fa, per cui in Australia erano scomparsi, ma in Tasmania ce n'erano ancora tanti quando la Tasmania è stata scoperta. Poi chiaramente anche come è capitato al povero Dronte, no? Già qualche secolo prima, insomma, nelle isole Marchesi, Dronte completamente estinto purtroppo. Anche il tiracino fu sottoposto a caccia spietata da parte di questi coloni, eccetera. E sopravvissuto appunto ufficialmente fino al 1936, perlomeno in cattività. Eccoci. Adesso però ci si chiede, in questa zona di foresta è possibile che sia sopravvissuta qualche famiglia questi tiracini per tutto questo tempo? E qualcuno dice sì, perché è una zona vastissima, totalmente inesplorata, e qualcuno invece dice no, perché insomma questo era è soprattutto un mammifero, diciamo, di pianura, di prateria, perché solo in quell'habitat riusciva, insomma, a inseguire, a catturare e le sue prede. E quindi la discussione è tuttora aperta. Su YouTube troverà un video dove è proposto come il video del tamento tiracino, però io francamente non riesco a decifrare le immagini, non conoscendo né il tiracino, né... cioè del tiracino si conoscono comunque, si conosce un film in bianco e nero, che è stato girato poco prima che appunto il povero Benjamin morisse. E quindi vabbè, proverò ancora, dico, a cercare questo filmato in bianco e nero, a confrontarlo con questo video che gira in YouTube. A me sembra un po' confuso questo video, però insomma è chiaro che è interessante riuscire a capire se questa specie di mammifero così importante e si è estinta oppure no. Se si è estinta, ciò è avvenuto a causa sicuramente dei colonizzatori. Se per caso è rimasta qualche famiglia, insomma, abbiamo anche qualche chance di ritrovarlo, esatto. Sperando però di trattarlo un po' meglio. No, poi qualcuno che invece addirittura procedere, insomma, alla clonazione, poi insomma si sono conservati anche dei campioni di materiale biologico in formaldeide, credo, insomma. Quindi pensano di poter arrivare alla nazione. Interessante. Andiamo avanti con la nostra criptozoologia, ambito che ci sta affascinando non poco in questo ultimo periodo. E adesso ci spostiamo anche in ambito musicale. Facciamo un piccolo spazzettino garage rock. Siamo subitissimo con Maestro Iggy and the Stooges, tratto dal terzo e ultimo album di questa lineup, 1973. Parliamo ovviamente di Raw Power, questa è Search and Destroy. Cheetah with a hat full of napalm. I'm the runaway son of the nuclear A-bomb. Oh, l'angolo di Tour Days Mystery Tour. Questa sera siamo molto felici di annunciare queste date bellissime. Oh, prima di tutto, il 13 maggio al Magnolia di Milano avremo gli amici di Mystery Tour Real McKenzie's, che ricordiamo sempre come dei grandi bollitoni. 13 maggio al Magnolia di Milano, non perdetevi questo concerto di punk celtico, scozzese, irlandese, The Real McKenzie's. 15 maggio invece al Teatro Leonardo da Vinci di Milano avremo i misteriosi The Residents, chissà chi saranno, con il loro occhio, testa occhio, il 15 di maggio. Poi invece abbiamo la tripletta giugno all'Alcatraz di Milano, imperdibile, il 5 giugno all'Alcatraz di Milano avremo i Megadeth con il ventennale di Rust in Peace, album riproposto interamente dal vivo in questa occasione, 5 giugno all'Alcatraz di Milano. Il 12 giugno invece all'Alcatraz sempre di Milano i bravissimi Bad Religion, professore universitario che canta punk rock, e qui siamo ben oltre, dalla California, quindi Bad Religion il 12 giugno. E sempre all'Alcatraz di Milano, per la terza volta in un anno, gli Slayer provano, Tom Araya prova a raddrizzare la schiena, la sua ernia, speriamo che dopo l'esorcismo. Dai, 29 e 30 giugno Slayer line up originaria all'Alcatraz di Milano. Poi il 2 luglio, oddio, a Salso Maggiore Terme in provincia di Parma, avremo per la prima volta in Italia in 40 anni, in più di 40 anni di esistenza, i Sonics da Seattle, Washington, padri del garage rock. Ti fanno anche una cura termale. Esatto. E qui è giustamente, vista l'età, 2 luglio, anche visto il periodo. I pionieri, insomma, del genere rock. Però. Esatto, i Sonics e i Mojomatics al Festival Beat di Salso Maggiore Terme. Imperdibile questa data. Madonna, poi, storica. 12 agosto a Maiano in provincia di Udine. Chi stiamo ascoltando in sottofondo? Il maestro Alice Cooper, mi raccomando, non potete perdervi questo appuntamento incredibile col suo nuovo show, veramente pazzo e schizofrenico, ambito serial killer quest'anno, per il suo ultimo album Along Came a Spider. Adesso noi ci ascoltiamo, visto che siamo in ambito invece un po' garage, un gruppo che ha deliziato una nostra bellissima serata dell'anno Domini 2000 in quel della Festa della Radio. Quindi dieci anni fa, Festa della Radio, International Noise Conspiracy dalla Svezia. Grandi, grandi. Un concerto veramente inarrivabile. Stupendo. E noi ve li facciamo ascoltare proprio con l'album di quell'anno, del 2000, che presentarono nel tour qui anche alla Festa di Radio Onda d'Urto. International Noise Conspiracy, l'album è Survival Sickness e il pezzo è il capolavoro Smash It Up. It up, all the world. bravissimi International Noise Conspiracy. E giunge per noi, professore, il momento di salutarci. Arrivederci. Ci sentiamo domenica prossima, sempre qui sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con Mystery Tour, che sin dal 1998 vi tiene compagnia con i misteri interplanetari, la cultura trash e la musica inaudita su tutti i fronti. Adesso un bel vinile ci spariamo. Ha suonato martedì scorso alla Latteria Molloy di Brescia, questi Lords of Altamont, che sono veramente esagerati. Vero garage con Jake Cavaliere, che era il tastierista dei Fatstones, tra l'altro, ha partecipato a un nostro brano con i Mugshots, ha suonato le tastiere lui. Noi abbiamo suonato la spalla, certo. Siccome eravamo senza tastierista, nei Strict Nine dei Sonics, la tastiera l'ha suonata il cantante tastierista dei Lords of Altamont e dei Fatstones. E poi hanno ricambiato facendomi salire sul palco a cantare Ain't It Fun dei Dead Boys. Una serata incredibile, proprio. Abbiamo legato grande bene con session. Questi Lords of Altamont, dei quali ci andiamo ad ascoltare The Split Garage Rock a go-go a domenica prossima.